Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Parliamo di Eluana, che è morta. Avvenire, il giornale dei Vescovi, ed è un giornale compassato, moderato, molto attento per ovvie ragioni, responsabilità istituzionali, gestione di un profilo che sì, di fede, di carità, ma che è anche un profilo, come dire, gerarchico. E, insomma, Avvenire è un giornale che non usa le parole a caso e in genere cerca anche di risparmiare sulle parole. Oggi dice una cosa di cui dobbiamo prendere atto, secondo me, e che è molto, molto forte. Eluana è stata uccisa, è l'editoriale di Avvenire, firmato da Marco Tarquinio. Davanti alla morte le parole tornano nude, non consentono menzogne, non tollerano mistificazioni. E se noi oggi non le scrivessimo queste parole, se non gridassimo questa tristissima verità, non avremo più titolo morale per parlare ai nostri lettori, ai nostri concittadini, ai nostri figli. Non saremmo cronisti e non saremmo nemmeno uomini. Come vedete, l'andamento è solenne, tragico, e nel corso di questo articolo di fondo del Quotidiano dei Vescovi, del compassato Quotidiano dei Vescovi, viene ripetuto ad ogni capoverso, vengono ripetute queste quattro parole: Eluana è stata uccisa. Noi dobbiamo cercare di capire che cosa significa. È evidente che Eluana non è stata uccisa nel senso, come dire, banalmente veristico del termine. Non è che qualcuno è andato da una, ha raggiunto, ha braccato, ha afferrato una persona e l'ha uccisa per sete di sangue, per spirito di crudeltà. Questa è la cronaca quotidiana, tante persone vengono uccise. No, è successa una cosa diversa. È vero che Eluana è stata uccisa, ma come è stata uccisa? Intanto è stata uccisa legalmente, questo è un punto molto importante, legalmente, con il conforto di una sentenza, poi giustificata, motivata dalla Suprema Corte, dalla Corte di Cassazione. Uccisione legale vorrebbe dire condanna a morte. È stata effettivamente condannata a morte Eluana. Eluana era una persona viva fino alle 8:10 di ieri, e dopo è stato necessario rilevare che era diventata un'altra cosa, una persona morta, un cadavere. Non era morta 17 anni fa, è morta ieri alle 20:10 per effetto di una condanna a morte, un'uccisione legale. Però, guardate, è molto importante questo. Non è stata condannata a morte per punirla, questo è il punto fondamentale. Non è stata condannata a morte per eseguire una sentenza che doveva realizzare una giustizia pubblica. È stata condannata a morte, dicono gli stessi che hanno eseguito la sentenza, per liberarla. Eluana libera, titolano molti giornali. La morte libera. La morte libera da una vita indegna di essere vissuta. È di questo che dobbiamo discutere. Se questa frase ha un senso e perché eventualmente questa frase abbia un senso. Eccoci qua. 800 24 00 24. Naturalmente il microfono è a disposizione del nostro pubblico. Abbiamo al microfono il professor Angelo Panebianco, che è un politologo, un editorialista, una persona che esprime opinioni sempre di grande peso e autorevolezza sul Corriere della Sera, e il senatore Gaetano Quagliariello del Partito delle Libertà e il vicepresidente dei senatori. Cominciamo a discutere con loro in questo nuovo clima che è di lutto, che è di riflessione, che è di meditazione. Le manifestazioni politiche sono state disdette. Insomma, c'è recriminazione, c'è risentimento, questo è normale, è umano. C'erano tesi contrapposte, questo è tipico di una democrazia adulta, però la morte di Eluana Englaro naturalmente fa, come dire, rifluire le punte aspre della polemica e ci mette in condizione di capire. Ecco, professor Panebianco, che cosa vuol dire che la morte libera da una vita indegna di essere vissuta? Ferrara, io non lo so, dottor Ferrara, non lo so proprio. E rivendico il mio diritto a non saperlo. Rivendico il mio diritto a non sapere chi ha ragione. Pronto? Sì. Pronto? Sì, sì, siamo qui. Pronto? Sì, siamo qui, professore. Ah, ecco, non mi scusi, c'erano delle interferenze. Rivendico il mio diritto a non sapere né che cosa vuol dire liberarla, né che cosa vuol dire quello che l'avvenire dice, cioè che Eluana è stata uccisa. E nell'editoriale di ieri, credo che sia fondamentalmente questa la ragione per cui lei mi ha voluto in trasmissione, io esprimevo appunto il mio diritto a tenermi alla larga dalle affermazioni apodittiche su casi, non su, solo su questo caso, ma su tutti i casi come questo che ci sono stati e che ci saranno. Quindi non le so rispondere. Posso suggerirle una traccia? Poi certo, sentiremo anche l'opinione del parlamentare, del senatore Quagliariello. Nel mondo pre-cristiano, nel mondo classico, nel mondo diciamo dei greci, dei latini, eccetera, secondo me una frase come questa era, nel mondo pagano, era accettata, accettabile. La vita non è buona in sé, non è un dono divino. La vita deve essere degna di essere vissuta. Il suicidio stoico, la capacità nel mondo classico, appunto pagano, precristiano, di essere padroni della propria vita, di trovare quella distanza, no, mentale, intellettuale, tutto questo è con Cristo, con Gesù Cristo, che le cose cominciano a procedere in modo diverso. Nella lettera di Ogneto, che è un documento proto-cristiano di grande importanza e bellezza, diceva: la differenza tra i pagani e noi è che noi non gettavamo i feti. La vita comincia a diventare sacrale, viene come dire, è incorporata nella persona, che non è più un individuo, una monade, ma un centro di relazioni, non è un'isola, e la vita comincia ad essere custodita, curata. Ecco, inizia la cura, gli ospedali, i centri di assistenza, il concetto stesso di carità, no? Carità vuol dire amore, ma è un amore comunitario, attento a curare, a consolare, a confortare, a dare un significato, non un significato di potenza umana, ma di reverenza verso il trascendente, il divino, alla sofferenza. Non è questo, professor Panebianco, il punto vero? Non è un atto quello di avere preso una ragazza dalla clinica dove le suore la curavano e averla trasportata in un luogo dove dei volontari che hanno formato un'associazione apposita per Eluana l'hanno spenta? Lasciamo stare il modo, che certamente è stato brutale, ma insomma comunque l'hanno spenta. Sarebbe stato brutale anche un'iniezione letale, uccidere è sempre brutale. Questo trasferimento dal luogo della cura al luogo della liberazione attraverso la morte non è un gesto culturale di rottura del basamento cristiano della nostra civiltà? Sì, questo è plausibile, e quello che lei dice sulla differenza, sulla rottura nel significato attribuito alla vita tra mondo prepagano e mondo cristiano lo accetto senz'altro. Però devo anche dirle e ribadire il mio disagio che nel momento in cui questa vicenda è andata sotto i riflettori, così come e inevitabilmente i tribunali, la politica cominciano ad occuparsene in un modo o nell'altro, in quel momento diciamo è stata sconfitta la posizione, che quindi io parlo da sconfitto sostanzialmente, perché la mia è la posizione. Sul suo giornale oggi un suo collaboratore molto intelligente, Roberto Volpi, dice che la mia è una posizione irrealistica, e ha perfettamente ragione, perché nel momento in cui questa vicenda diventa un fatto pubblico, in quel momento l'idea di lasciare lasciare ai medici, lasciare ai parenti, con tutti i loro errori, la casualità, eccetera, certe decisioni, viene, come dire, spazzata via, esce dall'agenda. E quindi quello che gli dice è vero, sul primo punto, sono d'accordo. Quella è la differenza tra la concezione cristiana e la concezione pagana. Però attenzione, che succede quando all'interno della visione cristiana si fa come ha fatto ieri ho sentito, mi pare Porta a Porta, mi sembra, il garbatissimo, civilissimo ministro Sacconi dire: ecco, adesso faremo una legge che regolamenterà la fine della vita. Che cos'è questo? Regolamentare la fine della vita, un Parlamento che regolamenta la fine della vita. Lei non prova un certo disagio di fronte a questo? Assolutamente sì, io sono contrario a qualunque legge. Adesso il decreto per salvare Luana da questa che io considero una crociata ideologica sulla sua pelle era un conto, ma diciamo era un decreto per fermare la mano di coloro che volevano spengere quella ragazza. Ma io sono contrario a qualunque legge, penso che non è possibile. Siamo d'accordo. Sentiamo invece un attimo il senatore Quagliariello su questa ipotesi. Diciamo, adesso non voglio insistere con la domanda, che però non è una domanda teorica, culturale in senso astratto, è una domanda importante, insomma, no? In che civiltà vogliamo vivere, in che quadro, in che cornice di cultura vogliamo vivere. Senatore Quagliariello, lei forse ha un'idea? Signor direttore, credo che la sua ricostruzione in termini culturali sia assolutamente condivisibile. C'è un problema, che proprio perché le cose sono in questi termini, la risposta alla domanda che lei ha posto può essere riportata solo in una dimensione personale, può essere riportata solo alla persona. Io credo, al di là dei giudizi morali sui comportamenti, che questa è la differenza fondamentale che è passata tra il caso Welby e quello di Eluana Englaro, che da una parte c'è stata una volontà espressa e una presa di responsabilità, un rifiuto esplicito, dall'altra c'è stata una volontà presunta, ricostruita, una presunzione fatale di agire in nome del bene. E questo, sul punto ha ragione Angelo Panebianco, non lo si è voluto lasciare nemmeno in uno spazio privato, al riparo dai parlamenti e dai mass media. Si è pretesa questa rottura di civiltà di portarla nello spazio pubblico e di risolvere il problema attraverso una sentenza, senza che il Parlamento, i rappresentanti del popolo, avessero la possibilità, fossero messi in condizione di poter dire una sola parola. Questa è la partita che si è giocata parallelamente a quella tragica, diciamo la cifra istituzionale di questa partita che si è giocata negli ultimi 7-8 mesi. Io però vorrei a mia volta farvi una domanda, perché sono il primo a rendersi conto della inadeguatezza di una risposta legislativa a questi problemi e al pericolo che siano i parlamenti a esprimersi in uno spazio che invece dovrebbe restare alla responsabilità e all'autonomia delle persone. Ma mi chiedo se l'alternativa è quella che queste decisioni nello spazio pubblico siano prese da delle giurie di tribunale, sulla base anche di elementi assolutamente casuali, perché quel che colpisce, se si mette a confronto la sentenza della Corte d'Appello con la sentenza della Cassazione, che poi ha consentito questa soluzione, e che dalla stessa fattispecie venivano tratti venivano tratte delle conclusioni sì, addirittura opposte. Lei ha ragione che si deve mettere ordine, questo lo capisco, in termini tecnici, funzionali, produrre norme. Il problema è che regolamentare la fine della vita legislativamente, insomma, è un bel dire, ecco. Volevo leggervi alcune righe, secondo me, molto importanti. Maurizio Mori è un biologo e il presidente della Consulta di Bioetica. La Consulta di Bioetica è una di queste organizzazioni, associazioni che legittimamente conducono, diciamo, una loro battaglia, per dire, sono quelli che vogliono che la ricerca vada avanti e che gli embrioni umani vengano sacrificati alla ricerca, insomma vengano comunque usati, impiegati nella ricerca senza remore, senza limitazioni. Sono quelli che sono per l'eutanasia, in alcuni casi anche per l'eugenetica, cioè per una visione, diciamo, della vita appunto non sacrale. E Maurizio Mori ha il dono della sincerità e dice: Eluana Englaro ha rotto sull'Unità un articolo, l'incantesimo della sacralità della vita. Quello secondo cui la vita è un mistero sempre nuovo e imprevedibile, è un dono sempre buono e in sé positivo. Mistero, è sempre Mori che parla, chiama sentimenti di venerazione e soprattutto di rispetto per i fini che vengono intravisti in filigrana e che indicano una sorta di volontà della natura. Dono suppone la bontà di quanto ricevuto ed esige una reciprocità che impone rispetto assoluto per rendere grazie per la preziosità ricevuta. Eluana, sempre Mori che parla, che scrive sull'Unità, presidente della Consulta di Bioetica, ha mandato in frantumi la sfera di cristallo della sacralità. E continua: la liberazione di Eluana dallo stato vegetativo permanente, liberazione è la vera loro parola d'ordine, segna una crescita morale e civile, qualcosa di analogo alla breccia di Porta Pia che ha sbriciolato la sacralità del potere politico. La breccia di Porta Pia, un atto di liberazione paragonabile alla breccia di Porta Pia. Ecco, ci stiamo avvicinando, io l'ho messa un po' alta, civiltà segnata dalla lezione e dalla predicazione messianica di Gesù Cristo, o civiltà pagana. Qui siamo più già sul concreto, insomma, un bel colpo, un altro grande colpo assestato in nome di principi di illuminismo radicale, di progresso, di lotta all'oscurantismo, al retaggio medievale, alla Chiesa Cattolica, una nuova breccia di Porta Pia. Penso che sia vero, è stato dato un forte colpo alla carità cristiana. Penso però che questo nasca da equivoci, da drammi anche di cultura che hanno attraversato la stessa Chiesa Cattolica, la quale dovrebbe riflettere sul perché si è arrivati a questo punto. Il giornale dei Vescovi dice che Eluana è stata uccisa, ma bisogna chiedersi come è possibile che si sia arrivati a questo punto, e cioè che questa uccisione legale abbia un sapore per gran parte dell'opinione pubblica, rendiamocene conto, per una parte larga dell'opinione pubblica, di una liberazione. Questo è un vulnus, è una grande novità culturale con la quale il Papa, i Vescovi dovranno fare i conti, non meno di quanto dovremo fare i conti noi, poveri osservatori e opinionisti laici. Professor Panebianco, io so che lei poi deve lasciarci. Io volevo, quello che lei ha appena detto si rilascia bene al suo punto d'attacco, nel senso che noi dobbiamo accettare che nella società libera, sulla cui formazione ha avuto un'influenza così, così formidabile proprio il cristianesimo, che nella società libera convivano visioni diverse e anche radicalmente diverse su che cosa è la vita, su che cosa bisogna fare per tutelarla, che cosa, e così via. Questo dobbiamo accettarlo perché, il portato inevitabile necessario della società aperta e del pluralismo che inevitabilmente porta con sé. Allora qual è il problema? Il problema è che, lei diceva, per la parte allarga dell'opinione pubblica è una liberazione. Sì, ma noi sappiamo anche che il paese è spaccato e un'altra parte dell'opinione pubblica si riconosce molto di più nelle cose che diceva lei. Allora noi dobbiamo accettare questo fatto. Qual è il punto? Qual è l'aspetto tremendo? È che quando queste concezioni si giocano nel privato, si giocano nelle... tutto questo non ha un riflesso pubblico, non obbliga a un intervento esterno, tribunali o Parlamento per me pari sono, vorrei precisare, non è che io condivida la tesi di chi dice no, il tribunale può intervenire, il Parlamento no, che mi sembra una cosa che non sta ovviamente né in cielo né in terra, ma nel momento in cui gli apparati istituzionali della società aperta intervengono, a quel punto lì si determina un vero vulnus, perché quel pluralismo che dobbiamo accettare come un dato di fatto e quelle diverse, opposte visioni sulla vita, la cui presenza dobbiamo accettare, vengono a uno scontro e deve esserci un vincitore o un vinto. Certo. E deve emergere una norma generale, non mi interessa quale, quella che premia la sacralità della vita, quella che premia coloro che inneggiano la breccia di Porta Pia, una norma generale che va a applicarsi laddove la norma generale, a mio giudizio, non dovrebbe esserci. Va bene, professore, la ringrazio molto, so che deve andare a lezione e quindi la congedo, ripeto, ringraziandola ancora per aver accettato il nostro invito. Senatore Quagliariello, voi avete convocato il Senato a tempo di record, avete a tempo di record finito l'esame o quasi del breve disegno di legge che era, la cui intenzione era quella di fermare il protocollo di disidratazione, ma dopo la morte ieri sera di Eluana vedo che adesso si parla di, ci si prende del tempo, 15 giorni. Io non dubito delle vostre buone intenzioni, ma conosciamo la prassi italiana, la prassi parlamentare, la difficoltà, la vischiosità dei rapporti tra le forze politiche, non faccio certo qualunquismo io, ma secondo me qui finisce che morta Eluana, la legge di nuovo non si fa, o sbaglio? No, direttore, non è così. Rispetto alla ricostruzione che lei ha fatto prima e il paragone con Porta Pia, io penso che il paragone ha qualcosa di vero, ma ci sono delle differenze. Da un punto di vista generale, la rottura di Porta Pia è stata tutta quanta una rottura sul piano secolare, è una rottura di dimensioni enormi, la ricaduta, diciamo, nell'ambito spirituale è stata per l'appunto una ricaduta, quello che è accaduto ieri è stata una rottura di civiltà che va ben oltre e più in profondità rispetto a quella che è la stessa storia della Chiesa, e per quel che riguarda la Chiesa possiamo dire che mentre Porta Pia ha colpito il palazzo, ieri è stato colpito il pulpito, ed è su questo che forse anche la Chiesa dovrebbe interrogarsi. E allora, se siamo in questa dimensione e con questa frattura, e torno ad un punto di Angelo Panebianco per ricollegarmi alla sua risposta, e non si può dire i parlamenti e i tribunali per me pari sono, anche per me in teoria. Ma nel momento nel quale questa rottura entra nello spazio pubblico e con questa virulenza, è necessario decidere se sono i tribunali o è la sovranità popolare che decide in questi ambiti. Ed è per questo che il discorso non può cadere. Oggi quella norma ponte che era stata immaginata è diventata una mozione e il Senato la voterà. Perché questo deve essere un atto di responsabilità al quale tutti i senatori devono essere chiamati. Bene. E deve essere un atto di sfiducia espresso da una Camera rispetto a ciò che è accaduto a Udine. Va bene, la ringrazio molto, senatore Quagliariello. Adesso ascoltiamo, grazie molto per aver accettato il nostro invito e buon lavoro per il voto della mozione. Adesso noi dobbiamo ascoltare con Luca Barbareschi al microfono. Buongiorno Barbareschi. Ah, è caduto. Dobbiamo ascoltare un po' i nostri amici radioascoltatori. Luca da Milano. Luca. Buongiorno, dottor Ferrara. Allora, la questione iniziale lei ha detto qualcuno regoli il nostro fine vita. A me questa cosa che qualcuno al di là da me dica se la mia è vita degna o non degna terrorizza. Quindi secondo me servirebbe una legge che consenta a ciascuno di esprimersi. Poi il punto dovrebbe essere: in mancanza di espressione si tutela la vita o si sospendono le cure? Per analogia di diritto, siccome in dubio un pro reo di solito, è meglio, in assenza di disposizioni chiare basate sul consenso informato, secondo me poi, se diciamo, su quando sospendere una cura dovrebbe essere deciso una volta fatta la legge da adesso in avanti, non retroattivamente, se di andare avanti con la terapia. Una posizione molto ragionevole. Cristiano da Torino. Buongiorno a tutti. Buongiorno Cristiano. Volevo esprimere due brevissime considerazioni, una nel merito del caso Englaro e, se fosse possibile, se era pertinente, su questo scontro istituzionale che c'è stato, ma che penso leghi comunque entrambi i discorsi. Per formazione personale e culturale, il principio e il rispetto della sacralità della vita per me è una cosa prioritaria. Per questo motivo non posso accettare la condanna a morte da parte degli stati. Per questo motivo faccio estrema fatica ad accettare le leggi sull'aborto che consentono l'aborto. Per questo motivo chiaramente non potevo essere a favore di quello che è stato fatto ad Eluana Englaro. Io proprio non posso condividerlo. Però faccio anche questa considerazione. Noi oggi quotidianamente dialoghiamo con stati che accettano la pena di morte, dialoghiamo quotidianamente con amici che sono su posizioni diverse, perché la società italiana è comunque spaccata, e che condividono e appoggiano le leggi sull'aborto e altre posizioni similari. Certo, e in questo caso la pluralità della nostra società... Cioè il cosiddetto, Max Weber lo chiamava il politeismo dei valori, ognuno ha, no? Cioè il relativismo, insomma, sostanzialmente ognuno ha... Ma dica però il cuore della sua osservazione. La mia osservazione era questa, che pur partendo da posizioni personalmente contrarie, credo che non stabilito dai giudici, ma stabilito dal Parlamento, dal libero Parlamento italiano, bisogna che gli altri siano liberi di decidere altrimenti da come lei la pensa, questo lei dice. Speriamo, però volevo dire, penso che comunque... Così come è stata fatta una norma su un problema delicatissimo come era quello dell'aborto, anche su questo debba finalmente essere presa una posizione da parte del Parlamento. E credo che questo vada fatto. Grazie, anche questa è un'osservazione molto ragionevole. Michele da Roma. Buongiorno direttore. Buongiorno. Vorrei fare due domande. La prima è questa: com'è possibile conciliare da parte del capo dell'equipe medica di Eluana Englaro queste due affermazioni? Eluana è morta da 17 anni e Eluana ci ha lisciati ieri sera. E la seconda è questa: nel diritto secolarizzato guardi, le rispondo subito, ma non voglio fare la difesa di De Monte, naturalmente il primario diciamo di rianimazione che è stato tra coloro che hanno spento Eluana in quella stanzetta nella clinica La Quiete. La prima affermazione riguarda la dignità della vita, cioè per loro Eluana vive una vita non degna di essere vissuta da 17 anni, quindi in un certo senso è morta 17 anni fa. Adesso ci ha lasciato, nel senso che appunto è stata liberata ed è passata da una non vita a una morte che per loro ha il significato di una liberazione. Prego, la seconda domanda, Michele. La seconda domanda è questa: il principio generale del diritto secolarizzato sarebbe quello di non legarsi alle proprie decisioni per tutta la vita. Ora si vorrebbe fare una legge che io oggi possa decidere cosa fare domani quando non saprò che cosa fare, mentre col divorzio e con altre leggi la concezione generale va al contrario. A me sembra che la civiltà che ha fatto breccia, come diceva Mori oggi sull'Unità, sia anche autocontraddittoria. Questo sia il vero problema che noi avremo. Grazie. Mauro da Roma. Sì, buongiorno. Sì. Io volevo semplicemente esprimere il mio concetto di grande tristezza che questo evento purtroppo ha portato a tutti, però senza giudizio, perché ritengo che la cosa sia stata veramente troppo privata e troppo spettacolarizzata. Si evidenzia una caduta di tono, secondo me, da parte di tutti coloro che non direttamente coinvolti hanno vissuto questo aspetto solo per un proprio tornaconto, per un proprio interesse, i politici, la Chiesa, chiunque. Io penso che veramente ci debba essere del silenzio, del rispetto. Non condivido, guardi, quel che è successo, perché io sono credente e rispetto la vita, e non sarei stato capace di prendere una decisione di questo tipo. Però non posso neanche permettermi di giudicare. Guardi, qui abbiamo avuto... Bene, è molto chiara anche questa posizione. Lei dice, io ho una cultura, una mentalità e una fede, lei è credente, dice che non... Che mi porta in una certa direzione, ma mi astengo dal giudicare e spero che queste questioni rientrino in un ambito di discrezione e di dolore privato, e che non diventino questo gran teatro tragico, diciamo, condizionato dalla politica. Non so se abbiamo ripreso la linea con Luca Barbareschi, non ancora. Maurizio da Lecco. Buongiorno, dottor Ferrara. Sì, buongiorno. Niente, io sono molto confuso da questa cosa, perché ci sono ci sono tantissimi livelli politici, cristiani, valori etici che si sovrappongono e che creano sicuramente una grossa confusione nella testa delle persone e di ognuno di noi. Io dico questa cosa, che la manifestazione esterna che Luana ci ha dato per 17 anni è stata la sua vita, cioè questo filo sottile che riusciva a dare una manifestazione del suo stato, seppur in modo forzato e seppur in modo voluto da altri. Io penso anche che lei abbia potuto sicuramente, attraverso questa manifestazione esterna, vivere una situazione incomprensibile a tutti, e che ognuno di noi non ha ancora provato o non proverà. Maurizio, grazie molte, e grazie soprattutto a tutti voi, devo dire, per la straordinaria civiltà di queste telefonate, di questa conversazione. No? Non è abbastanza, insomma, non succede sempre che su un mezzo di comunicazione di massa come la radio, così flessibile, dove chiunque può accedere, eccetera, su una questione così tormentosa, così aspra, sulla quale si esprimano opinioni così pacate, così dubbiose, sicure del proprio dubitare e anche delle proprie certezze. Vi ringrazio veramente molto, è una cosa che mi dà un grandissimo sollievo. Bene, Luca Barbareschi è, oltre che un celebre attore, un deputato del Partito Popolo delle Libertà. Barbareschi, ci dica la sua opinione su questo caso. Come forse qualcuno sa, perché l'ho detto sia sui miei blog sia con delle affermazioni, io sono però a favore dell'eutanasia, per cui... Era a favore dell'eutanasia? Sì. Per cui mi sono trovato ovviamente in conflitto con quello che è il partito in cui in qualche modo appartengo adesso, onorevole. Credo se ne sia fatta, ho seguito con interesse sia le sue affermazioni, sia quelle di Angelo Panebianco, e trovo che, come diceva prima in trasmissione, sembra piacevole sentire due intelligenze che si uniscono e cercano di trovare una soluzione intelligente a tutto quello che accade. Sinceramente la cosa che mi ha dato più fastidio è forse la speculazione politica su questa roba qua, cioè ho trovato una brutta figura di parlamentare, cioè vedere la gente che si mena al Senato, gente che urla, che... Non credo sia questa la maniera di affrontare una mera così delicata. Ecco, non vorrei, e sentivo alcune battute prima, non so se erano, fossero sue di Pagliarelli, adesso ho perso memoria, ero in una riunione, e che questo fosse sia stato un ballon de sea sul momento, e poi, come accade spesso in Italia, appunto fra un anno saremo ancora qui a parlarne, insomma non succederà nulla. È un po' la tradizione italiana. Ecco, detto questo, penso che su un argomento così delicato forse un po' di silenzio sarebbe servito e magari affrontarlo in maniera, come tanti altri argomenti, in maniera istituzionale. Sì, l'argomento del silenzio è un argomento, naturalmente, per carità, figuriamoci poi adesso, dopo la morte di Luana, è evidente che tutti vorremmo che ci fosse solo silenzio, infatti in qualche modo stiamo cercando di fare una conversazione che ha dentro anche il silenzio, per quanto paradossale possa sembrare, cioè una conversazione a spengere, non ad accendere, non a inasprire, però insomma lì bisogna essere molto chiari, secondo me. La questione è stata portata in pubblico dai sostenitori dell'eutanasia, del diritto di morire. Però anche corretto. Cioè, certo sì, cioè, quindi sa, come si fa a stare zitti? Sì, però da lì alle urla, alle minacce, quello, che uno debba andare certo sotto scorta, insomma, mi sembra di tornare alla caccia alle streghe, insomma, tutto sommato qui ci troviamo davanti a poi a una cosa fondamentale, che c'è un dolore spaventoso di un padre. Cioè, io ho un'amica carissima che ha una sorella in coma, no, vegetale, stato vegetale da 2 anni, e le posso assicurare che è una cosa che ha devastato quella famiglia. Però devastato. Credo che lei sarà d'accordo con me, Barbareschi, se io dico che il padre va rispettato diciamo nella sfera del suo dolore, ma su questo non ci piove. Va anche rispettata però la funzione, non so chi lo ha voluto chiamare eroe civile, la funzione pubblica che si è assunto, perché il padre ha questa caratteristica, il mio amico Iannuzzi lo dice sempre, dice è l'unico italiano che crede così, così drasticamente, così radicalmente nella legge. Ma lei è sicuro che sia l'unico italiano? Che crede così drasticamente, radicalmente nella legge. Io credo sia la maggioranza. Vediamo. Secondo me lei è un po' ottimista. No, diciamo ottimista, il padre ha fatto una battaglia di 15 anni per avere ragione legale. Sai cosa mi stupisce? È che in un caso che in Italia sta coprendo le prime pagine di giornale, addirittura mettendo in crisi quasi la stessa identità di un partito, no? Perché se si fosse votata avremmo avuto metà sinistra che votava, no, con la destra, si sarebbe, non so come dire, ridisegnata una mappa politica italiana in realtà, che forse è quella reale, cioè quella che sta dalla parte dei cattolici un po' più integralisti e quella che invece è per uno Stato un pochino più libero, laico. Questa era la cosa forse più interessante, ma la cosa più, secondo me, ancora più da notare è che al di fuori dell'Italia nessuno parlava di queste cose. Cioè io ho l'abitudine di guardare ARD, di guardare Sky, di guardare BBC, di guardare... però insomma gli americani, quando avvenne il fatto di Terry Schiavo, ne parlarono, e come, insomma, ognuno naturalmente parla delle storie che riguardano. Insomma, non mi sembrava fosse un argomento così. Allora, forse nel resto dell'Europa sta succedendo cose diverse, insomma, c'è un'apertura diversa, ma questa è un'opinione ovviamente personale. Grazie onorevole. Grazie a lei. Grazie molte. Luisa da Verona. Luisa. Buongiorno, dottor Ferrara. Senta, io volevo dire una cosa. Volevo dire che io, mia mamma, purtroppo è stata vegetativa da 10 anni, però la curo amorevolmente con l'aiuto di una signora e mai mi sognerei di fare quello che ha fatto il signor Englaro. Comunque io vorrei dire che vorrei tanto una legge che obblighi la nutrizione e l'idratazione, perché la parola che ha detto lei, liberare, mi fa proprio paura. Penso a tutti quei vecchietti che quest'anno verranno liberati dalla loro condizione vegetativa. Scusi, sono emozionata. Io spero io di no, dire Luisa. Solo quello. Spero di no e credo che poi alla fine qualche argine culturale, sociale, forse persino legislativo verrà messo, insomma, no? Perché quando accadono fatti di questo genere poi alla fine contano le emozioni di tutti, sia le emozioni di chi pensa che sia stata una liberazione, sia le emozioni di chi pensa che è stato appunto un omicidio legale, una specie di crociata ideologica ingiustificata dal punto di vista umano. Comunque io spero che non succeda. È vero però che le persone con forti, gravi, aspre disabilità, soprattutto che riguardano la coscienza, penso ai malati di Alzheimer, che sono certamente un problema sociale, perché il governo di quel tipo di malattia nella sua fase più evoluta, e tutte le persone più in genere che scontano e che hanno spesso, penso al caso Crisafulli, mandato un grido di dolore non raccolto dalla società italiana, non raccolto al suo giusto livello, e il grido di dolore era contrario a quello del signor Englaro, era curateci, confortateci, consolateci, dateci una possibilità di persistere nella vita, perché anche la nostra vita di immediata è degna di essere vissuta. E certamente, insomma, non si può non ammettere che dopo la morte di Eluana, in queste circostanze, i deboli oggi sono più deboli. Ecco, forse la libertà di coscienza è stata rispettata, forse, almeno la libertà di coscienza presunta è stata rispettata, ma i deboli sono più deboli. Ringrazio ancora i tantissimi che telefonano, Alfredo, Fabio, Francesco, Mario, i tantissimi che hanno intasato i nostri centralini. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a questa conversazione. Ormai, purtroppo, dobbiamo dircelo, completamente inutile dal punto di vista che più premeva, che era quello di dare un senso a una vita che pulsava. Adesso si tratta di dare un senso alla morte, che è sempre più difficile. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Matei, grazie a voi radioascoltatori, linea Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Grazie a tutti, a domani.